Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Anche questa settimana siamo andati a cercare due progetti che cercano il vostro aiuto, il nostro aiuto, il finanziamento dal basso, e li trovate sulla piattaforma di Apple, ma anche sulla pagina di Crowd Me Up e di Si Può Fare sul sito di Radio 24. Cominciamo con il primo progetto, che è un progetto di agricoltura solidale. Si chiama L'Orto Torto, è un'attività di agricoltura sociale che a Fiesole favorisce l'inclusione e l'integrazione sociale di persone con disturbi psichiatrici e in situazioni di svantaggio. Dopo quasi 7 anni l'attività rischia di chiudere per mancanza di risorse economiche e umane. Per evitarlo servono 8.000 euro, come ci racconta Lucia Merlini della Caritas di Fiesole. Buongiorno. Benvenuta Lucia. Buongiorno a tutti. Allora, un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché possiamo aiutare l'Orto Torto a non chiudere. Allora, come possiamo aiutarlo? Aiutandoci a fare la raccolta fondi che abbiamo lanciato, ma anche venendoci a trovare e dandoci il sostegno della comunità territoriale, una maggior visibilità, ma anche così mettendo in campo le competenze, uscendo dal nostro guscio. La nostra è una bella esperienza di agricoltura sociale e biologica. Guarda, noi abbiamo una sola operatrice, che Giulia, che coordina un gruppo di 7 persone con svantaggio, e questa nostra capacità di mescolare persone con disturbi psichiatrici, problemi di dipendenze, problemi penali, è la nostra forza e ha in sé qualcosa di molto educativo, perché tutti devono mettere in campo le loro capacità migliori e le risorse personali, non solo per mandare avanti l'attività, ma anche per aiutarsi a vicenda. E facciamo agricoltura sociale con gli scartati dalla società e li mettiamo al centro, li abbiamo resi protagonisti e attori principali. Gong, bravissima Lucia, sei stata nei tempi. Precisamente. Già, come hai detto, agricoltura... in questo modo già mi hai conquistato, sono toscano anch'io tra l'altro. Che tipo di prodotti producete lì nel vostro Orto Torto? Allora guarda, facciamo ortaggi biologici senza l'uso di additivi chimici, poi abbiamo un po' di galline, ma più per pet therapy e perché i ragazzi le hanno volute e che insomma, ecco. C'è anche la quinoa, che oggi stamattina parliamo di quinoa tantissimo. No, quella sai, è la coltivano sulle Ande, noi siamo in Val d'Arno. Molto giusto, cibo locale, risposta. Saranno contente le mamme delle mense fiorentine. Come impiegherete questi 8.000 euro in caso? Guarda, ad agosto ci finiscono i finanziamenti, abbiamo mandato avanti l'attività grazie ai fondi 6-8 per 1000 e un po' di contributi su due bandi regionali della regione Toscana. Come li impiegheremo? Abbiamo 2 piccoli part-time da mandare avanti e quindi insomma, bisogna retribuirlo anche un po' di questo lavoro. Grazie Lucia, resta in collegamento, così come Paolo da Lecce, Franco da Bari e Mirko da Prato, la nostra giuria. Ascoltatori giurati restano in attesa, belli concentrati, presentiamo il secondo progetto. Si chiama Fuga dalla Morte, stagione... Seconda. È la seconda stagione appunto di una web serie TV che si intitola appunto Fuga dalla Morte. La prima edizione ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni e una nomination come migliore web serie dell'anno ai Web Show Awards. Però nonostante questi successi non si trovano finanziatori per la seconda stagione, così i produttori si sono rivolti alla rete per cercare di raccogliere 15.000 euro, come ci racconta Michael Righini. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, è giusto Michael o è Michael? No, è Michael, per una volta che l'hanno detto bene, mantenemolo. Ho detto magari è più tedesco che anglofono. Allora, no, guarda, mi hanno chiamato in tutti i nomi, tutte le lingue. Anche a te Michele, un minuto, Michele. Poco più, per raccontare come e perché possiamo sostenere questo progetto, la seconda stagione di questa webserie che aveva ottenuto, alla prima colpo, un grandissimo successo. Sì, allora praticamente siamo un gruppo innanzitutto di giovani appassionati di recitazione, serie TV, regia e quant'altro. Ci siamo autoprodotti totalmente la prima stagione, questa anche se chiediamo dei finanziamenti ai fan, lavoriamo totalmente ognuno di noi gratuitamente, come giusto che sia, e già abbiamo anche in parte autofinanziato anche questa seconda stagione. Quello che andremo a fare è una cosa molto, molto carina, molto artistica per la rete, che può essere anche un modo per far lavorare tanti ragazzi che hanno il sogno della recitazione nel cassetto, di farsi un po' conoscere tramite il web e dare questo modo ai fan di poter continuare la serie che stavano guardando. E quindi siamo contenti se riusciremo nello scopo. Non è una cosa che cambierà il mondo, non è umana, però artisticamente secondo me è una cosa molto carina e valida per i giovani. Beh, cavolo, poi a parte che sei stato una precisione nei tempi, non so come ho fatto. Come è proprio, sei un attore. Avevi terrorizzato il minuto. Beh, poi 3 milioni di visualizzazioni, se pensiamo che tante cose che passano in TV non raggiungono queste cifre, complimenti. Tipo quasi tutte. Poi naturalmente la curiosità di sapere di cosa si parla in Fuga dalla morte, qual è la trama, però lì forse bisogna vedersi la prima serie per poter dire qualcosa. Beh, in una frase si può dire che è un ragazzo che è rimasto in coma e deve riuscire a svegliarsi, tutto quello che vediamo è dentro la sua testa, e quindi c'è questa prigione mentale che viene trattata. Ah, mamma mia, beh, insomma, è avvincente, sicuramente. 15.000 euro non sono tanti, però, per fare una... Costa così poco fare una webserie? Beh, no, in realtà... Giustamente ci hai ricordato che voi lavorate tutti gratuitamente, che ovviamente sì, questi soldi servono solo per i materiali, immagino, per quelle cose che è impossibile non pagare. Sì, no, fate costi conto vivi. Che più che altro è solo per i costi di viaggio e di magari le spese ineliminabili. Va bene, allora andiamo dai nostri giurati. Cominciamo con Paolo della provincia di Lecce, quello del pasticciotto. Paolo, quali due progetti tra l'orto torto e la webserie ti ha convinto di più? Sì, io sono nato come informatico, mi rilasso scrivendo software, però voto per l'orto sociale perché mi piace l'orto torto, perché mi piace le cose che non so fare. Perfetto, va bene, così. Perfetto, un voto per l'orto torto. Franco, sempre dalla provincia di Bari. Sì, io essendo coltivatore diretto devo votare per l'orto morto, è chiaro. Ma morto, no? No, morto. Ha fatto una sintesi tra i due. Uno è Fuga dalla morte, l'altro è l'orto torto, però vabbè. Avevo capito, l'orto morto. Scusa. È morto, perfetto, cioè, perfetto. Se non lo finanziamo muore l'orto, questo sicuramente sì, Franco. Vabbè. Specialmente l'agricoltura biologica. Esatto. Giusto, vabbè. Giusto. Franco poi ride, da stamattina che ride. Mirko da Prato, sì, due ragazzi. Voti a zero per l'orto torto contro la webserie. Vuoi ribaltare il risultato da solo con una doppietta allora, o no? A parte che Franco ha fatto ridere anche me. Io non, cioè, nonostante la simpatia per i colleghi, però siccome sono molto vicino al mondo del disagio mentale, essendo anche un po' disagiato, anch'io voto per l'orto morto, come l'ha chiamato Franco. Grandissimo, grande palla in rete, gol, applauso, perché c'è. Direi che l'orto morto è risuscitato a questo punto, che lo stiamo chiamando anche noi così, ovviamente si chiama orto torto. Ricordiamo comunque che certo. Il nostro non è un concorso ad eliminazione, quindi la webserie Fuga dalla morte rimane, la ritrovate sulla piattaforma di Eppela e chiunque può decidere a chi dare i propri soldi. Sì, sono sicuro che il mondo della rete sarà molto sensibile a questo tipo di iniziativa, che poi sta in rete essendo una web serie. Quindi grazie a Lucia Merlini dell'Orto Torto, ma anche a Michael Righini di Fuga dalla morte stagione seconda. Lui era di Dreamers Productions. In bocca al lupo per i vostri progetti. Trovate tutto sulla piattaforma di Eppela e sul sito di Radio 24. Ci risentiamo tra poco. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela.